La posizione stessa del lavoratore sportivo calciatore dovrebbe in un certo senso essere modificata. All'interno di questi studi questa posizione diciamo che vede una possibile qualifica di lavoratore sportivo ad hoc, nel senso di non appoggiarsi più agli istituti tipici del lavoro, quindi subordinazione e autonomia come prevista dalla legge 91 dell'81 che ormai appunto risale a più di 30 anni fa e quindi creando una figura ad hoc. Sintetizzando quello che sta giustamente evidenziando, dottor Italiani, l'equiparazione idraulico uguale Totti uguale Del Piero dovrebbe essere sostanzialmente scardinata e superata proprio per rendere poi il quadro normativo più gestibile. Ma in merito all'altro tema caldo, che è quello della specificità dello sport e il suo eventuale riconoscimento in sede di Unione Europea, un tema che ormai è quasi un decennio che è sul tavolo, crede che si possa poi effettivamente arrivare a un riconoscimento di questo tipo? Diciamo che nelle competenze sicuramente è rientrato già nel Trattato di Nizza e poi comunque sia sta rientrando anche nella Costituzione, quindi diciamo che ormai penso che sia imminente il riconoscimento, come dire, ufficiale dello sport che rientra appunto nelle competenze della Comunità Europea, ma come produttore di economia, non solo come produttore di socialità e cultura, in poche parole.